Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il Veneto è la regione che ha più birrifici artigianali in Italia. Un boom partito nei primi anni 2000 e che sembra oggi inarrestabile, complice forse il fascino che questa bevanda esercita soprattutto sui giovani, ma anche il fatto che per produrla necessitano meno investimenti che, ad esempio, aprire un'azienda vitivinicola. Si moltiplicano i corsi per diventare maestri birrai, ma non è proprio tutto così semplice. Per saperne di più abbiamo oggi con noi Ivan Borsato, titolare del birrificio Casaveccia di Camalò in provincia di Treviso e anche neopresidente regionale dei birrai di Confartigianato Imprese Veneto. Tante le questioni sul tappeto, io partirei dalla prima: quanti sono e chi sono i birrai artigianali veneti e anzi, in primo luogo, che cosa vuol dire birra artigianale? Bene, allora, intanto magari definiamo la birra artigianale, no? Un po' come la indichiamo noi altri. E la birra artigianale per noi è quella birra prodotta da un piccolo produttore artigiano, non filtrata e non pastorizzata, prodotta con l'antico metodo, cioè il classico metodo per la produzione della birra, quella che avevano anche quelle che utilizzavano anche i monaci nei monasteri. Ecco, è vero che oggi la legge va a normare anche quella che è la birra artigianale e ci dà dei paletti ben precisi. Dice che deve essere prodotto da un piccolo produttore, parla però di 200.000 ettolitri l'anno, che sono comunque abbastanza per un piccolo produttore. Ci dice chiaramente che sia una birra non filtrata e non pastorizzata, ma forse una cosa importante, specialmente in questo momento storico per la birra artigianale, è che il birrificio sia un birrificio indipendente, cioè non abbia partecipazioni da parte di grosse multinazionali oppure di altre società. Ecco, quando parliamo di legge stiamo parlando della legge nazionale che è entrata in vigore l'anno scorso. Questa è stata approvata l'anno scorso tramite un decreto legge. Ecco che in Veneto noi siamo un gruppo abbastanza folto. Ci sono, non ho il dato preciso perché ahimè o per fortuna ogni settimana qualcuno si comincia questo percorso per diventare birraio. Attualmente dovremmo essere circa una quarantina, suddivisi tra produttori con impianto, che sono i classici birrifici, produttori con impianto e mescita, che sono i brew pub, quei posti in cui si può andare a consumare la birra. Certo. E spesso e volentieri dietro una bella vetrata si vede, diciamo, la macchina per la produzione. Però ci sono anche dei terzi soggetti, che sono quelle che vengono chiamate le beer firma, cioè quei produttori che non hanno l'impianto e si avvalgono di un impianto altrui per la produzione della birra. Quale birra in particolare, cioè perché il Veneto si è così sviluppato e quali caratteristiche hanno un po' le birre che vengono prodotte dai birrai artigiani nel Veneto? Bah, allora, più che caratteristiche delle birre dei birrai veneti, dovremmo parlare proprio di caratteristiche della birra artigianale italiana, dove, diciamo, un po' col nostro estro tendiamo ad essere molto creativi e anche innovativi per il settore e ci mettiamo cose magari anche inusuali all'interno della birra e ci leghiamo spesso e volentieri anche al nostro territorio, vuoi per le materie prime con le filiere corte, adesso con l'arrivo dei birrifici agricoli, o magari con delle cose legate storicamente a noi, per Silvio Food, piuttosto che particolari frutta, verdura o cereali che vengono coltivati in determinate zone. Sappiamo invece che la birra è fatta da pochi ingredienti base, se vuoi ricordarli, e poi si possono inserire dei prodotti che si possono aromatizzarla, a differenza che nel vino, dove non si può. Esattamente, la birra è fatta semplicemente con acqua, malto, lupolo e lievito, quattro ingredienti. Il resto è la passione e l'amore che ci mettono le persone come noi altri a fare questo mestiere. Ecco che però si possono personalizzare legandosi al territorio, facciamo birre di vario genere, dalle più, per modo di dire, blasonate e stagionali, tipo le birre con il radicchio, piuttosto che birre con della frutta particolare legata a specifici territori, non so, mi viene in mente il cico nero di Sarone, piuttosto che, non so, anche, non è frutta, ma insomma anche le castagne del Monfenera, piuttosto che di Combai. Perciò c'è spesso e volentieri la componente del territorio che va a finire dentro sulla birra. Ecco, chi vuole diventare birraio che cosa dovrebbe fare? Ma allora, in realtà non c'è nessuna necessità propedeutica, nel senso l'unico limite è quello di avere l'attrezzatura e di avere la licenza chiaramente delle dogane. Però è anche vero che adesso sono partiti molti corsi per la formazione di persone in questo settore. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Quelli come me si svegliano alle tre e dicono che i giorni sono corti, e poi quelli come me si svegliano a metà, rimangono coi sogni mezzi aperti. Hai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie, sta a vedere che sappiamo già com'è, ci riposiamo solo dopo morti. Veneto e il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di microbirrifici, lo stiamo facendo con Ivan Borsato, titolare del birrificio Casareccia di Camalon, provincia di Treviso, e presidente regionale dei birrai di Confartigianato Imprese Veneto. Avevamo iniziato la trasmissione parlando della legislazione nazionale. So che c'è in discussione un progetto per una legislazione anche regionale veneta. Di cosa si tratta e quali caratteristiche in teoria dovrebbe introdurre? Ecco, niente, questa proposta di legge regionale prevederebbe di istituire un marchio di qualità sia per il birrificio generale che per la birra artigianale. È chiaro che è tutto qualcosa ancora da plasmare. Proprio in questi giorni stiamo prendendo contatto anche noi attraverso Confartigianato con la Regione, facciamo qualche incontro, perché proprio la scorsa settimana la legge ha cominciato il proprio iter in Regione. L'idea nostra è quella di cercare di consigliare la regione di prendere determinate di prendere determinate decisioni in maniera che questa legge poi effettivamente si vesta bene, si cucisca bene addosso ai produttori, non che magari venga creata da qualcuno che in realtà poi il mestiere non lo fa. Ecco, ci sono sempre più produttori, abbiamo visto che aumentano le persone che fanno gli imprenditori, appunto, i birrai nel mondo della birra. Come capire, come orientarsi? Immagino che la qualità non sia sempre uguale, forse microbirrificio può voler dire qualità, ma non è necessariamente, necessariamente così. Come fare per capire se una birra è veramente di qualità? Beh, infatti in realtà diciamo l'idea della legge regionale, ma comunque in realtà parte ancora prima da una nostra iniziativa, che è quella di creare una sorta di organismo di controllo. Perché se da un lato spesso e volentieri colleghiamo l'idea di artigianalità e di piccolo produttore a qualità, non è poi in realtà sempre vero. Ecco che abbiamo bisogno anche nel nostro interno di regolamentarci. Questo lo possiamo fare con un piccolo disciplinare, con delle poche e semplici regole per fare bene la birra, perché l'idea nostra è quella di fare una birra che sia oggettivamente buona, cioè che sia salubre, che abbia le caratteristiche organolettiche giuste. Poi potrà essere soggettivamente piacevole, perché ad ognuno potrà piacere un tipo di birra piuttosto che un'altra. C'è ancora spazio per chi volesse intraprendere questa professione? Cioè, nel senso, sono molti i micro birrifici, non c'è solamente la... forse è facile produrre, ma poi bisogna anche vendere. C'è spazio nel mercato, c'è interesse verso questi prodotti? Allora, l'interesse c'è, lo spazio c'è, l'unica cosa è che dobbiamo stare attenti a non bruciare le tappe. L'importante è che non entriamo, diciamo, con un'idea speculativa in questo settore. Oggi ci si stanno affacciando tantissimi che diventano imprenditori, in realtà non sono più appassionati per questo mestiere, che immettono nel mercato grossi quantitativi di birra. È chiaro che l'utente medio sta evolvendo e l'utente medio piace bere di qualità e meglio, un po' quello che è successo nel vino alla fine. Perciò da un lato la birra artigianale sta rodendo un po' il mercato della birra industriale, dall'altra parte la birra industriale un po' di spazio lo perde, perché in generale la gente comunque beve meno a livello di quantità. L'importante è non immettere nel mercato quantità di birra superiore a quella che il mercato riesce ad assorbire, altrimenti rischiamo di entrare in una bolla un po' così speculativa e che potrebbe anche esplodere. C'è qualche manifestazione nel nostro territorio a livello anche fieristico o d'altro dove uno potrebbe andare per conoscere maggiormente questo mondo? Allora, delle fiere istituzionali da noi nel nostro territorio non ci sono. Diciamo il raggruppamento più grosso per i birrifici avviene alla fiera di Rimini, al Beer Attraction, che ormai è diventato un appuntamento annuale dove si trovano moltissimi birrifici. Poi ci sono delle altre fiere che noi diciamo definiamo più feste della birra, voglio dire, dove l'utente, anche quello meno evoluto, può andare e trova magari un certo quantitativo di birrifici. Noi siamo nati 7 anni fa anche grazie alla rassegna trivenete delle birre artigianali, che fanno negli ultimi 3 fine settimana di novembre qui a Camalò presso da Proloco, con un'iniziativa diciamo di volontariato. Però ci sono altre manifestazioni come la fiera della birra di Santa Lucia, dove magari lì l'approccio è leggermente più commerciale, però magari c'è una scelta diversa rispetto a quella che troviamo a Camalò nella rassegna. Bene, grazie per questo approfondimento e cercheremo di capirne sempre di più e vedremo se esce questa legge, e invitiamo anche gli ascoltatori ad avere anche attenzione, oltre che per il vino veneto, anche per la birra prodotta dai nostri maestri birrai. Grazie. Grazie a voi per il tempo. Grazie. E chiudiamo con un paio di notizie passando dalla birra al vino. Le due principali associazioni di sommelier italiane propongono 2 iniziative questo fine settimana nel Veneto. Domenica 12 marzo, infatti, l'Associazione Italiana Sommelier del Veneto propone l'iniziativa 300% Wine Experience, una giornata interamente dedicata alle eccellenze enogastronomiche della nostra regione. In degustazione ci saranno 300 vini dei migliori 100 produttori veneti, dove a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago il costo è 25 euro, 20 per chi prenota online entro il giorno prima sul sito internet www.aisveneto.it. La FISAR, invece, la Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori di Venezia, organizza sempre domenica 12 marzo Gradito l'Abito Rosso. Si terrà nei saloni dell'hotel Westin Europa in Regina, proprio a Venezia, non lontano dalla stazione ferroviaria. In degustazione vi sono grandi vini rossi del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Ingresso euro 20, info sul sito www.fisarvenezia.com. Infine domani, mercoledì 8 marzo alle ore 9.30 ad Agripolis di Legnaro in provincia di Padova, nella sede centrale dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, si terrà un workshop che punta ad analizzare la convenienza degli investimenti in agricoltura di fronte alla PAC post 2020. L'evento è promosso da Veneto Agricoltura, Europe Direct, d'intesa con la Regione Veneto e l'Università di Padova, ed è un momento di confronto e discussione su alcuni temi caldi che interessano da vicino il mondo agricolo, e si comincerà a parlare di PAC post 2020, per la quale la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica aperta fino al prossimo 2 maggio. L'ingresso è libero. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento la prossima settimana con il Quadrifoglio. Potete riascoltarci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.